ho perso tutto in un lampo. Nomade sangue, mio figlio, con questo chiodo di ferro ficcato dentro al cervello. Quale domani per noi, noi dal destino di fuoco, perché chi è senza padrone, nomade come me, vale meno di un topo. Facciamo presto, è già tardi, prima che notte diventi, finché c'è luce che brilla, finché c'è luce mia stella. Prendi di tutto, di quello di cui abbiamo bisogno per essere al coperto, che l'odio acceca anche il buio. È questa vita di stenti che detta il tempo dei tempi, questa vita da bestia che ci condanna alla frusta, che ci spezza le mani e ci lascia impalati, insanguinati di spine, una corona di sputi. Questa vita da pazzi che ci spezza anche i denti, pubblicità più non posso, pubblicità di ogni lusso, ed io che resto a guardare con le mie quattro creature su un grande schermo gigante, le tasche piene di niente. Questo buco di osso che ci leva di dosso la dignità e anche il resto, io proprio proprio non posso restare muto di gesso, non ho neanche una scelta, l'amore a volte non basta. Uccidono un poco alla volta, come potrei dare il meglio? È questa vita di stenti, nomade sangue, mio figlio, che detta il tempo dei tempi, con questo chiodo di ferro, questa vita da bestia, ficcato come un coltello, che ci condanna alla frusta, quale domani per noi, che ci spezza le mani, noi dal destino di fuoco, e ci lascia in pace. Perché chi è senza padrone, nomade come me, vale meno di un topo. Ho perso tutto in un lampo, questo buco di osso, nomade sangue mio figlio, che ci leva di dosso, con questo chiodo di ferro, la dignità e anche il resto, ficcato dentro al cervello, io proprio proprio non posso. Quale domani per noi, noi dal destino di fuoco, non ho neanche una scelta, perché chi è senza padrone, l'amore a nomade come me, non basta, vale meno di un topo.